Sei sbloccato, sì. Pronto? Pronto. Vai, tutti sbloccati. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo come sempre dalla Galleria San Lorenzo in pieno centro di Montevarchi e come sempre ringraziando Stefano Neri, il nostro padre putativo che ci dà questa disponibilità, la disponibilità di questo spazio. Fumino, qual è l'ospite di stasera? Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, l'ospite di stasera è una persona che ha un passato nel calcio molto importante, ha visto piazze importanti, ma prima di presentarlo presentiamo il nostro regista di stasera che è Bernardo Bertolucci, fresco fresco del restauro del suo famosissimo tango a Parigi. Bando alle ciance, l'ospite di stasera, benvenuto negli studi di Radio Big World, Giorgio Rosadini. Buonasera a tutti. Bene Giorgio, buonasera. Iniziamo dalla fine, perché comunque il campionato dell'Aquila è al termine in questo momento in cui stiamo registrando, manca una giornata alla conclusione. Quando questa puntata, questo podcast andrà in onda, il campionato sarà già finito. È il momento forse giusto per provare a tracciare un bilancio per la prima stagione nel ritorno in Serie D, dopo appunto la rinascita della società, dopo anni di delusione o comunque di delusioni sportive. Qual è il bilancio suo, Rosadini, rispetto a questa stagione appena conclusa? Ma direi che è un bilancio estremamente positivo, perché comunque abbiamo coronato una rincorsa da parte della società che dalla seconda categoria è ritornata in una categoria che gli compete e che forse oggi è il vestito più giusto per la nostra cittadina e per la nostra tradizione. Direi che quest'anno è stato il primo anno della Serie D e avevamo programmato di poter fare un campionato tranquillo e così è stato. Avevamo programmato di fare un campionato con tanti giovani, di valorizzare i giovani e direi che si è rispettato tutto quello che avevamo, diciamo, in mente. Effettivamente una salvezza sicura o comunque abbastanza raggiunta abbastanza rapidamente, con oltre 50 punti a inizio anno, come prospettiva ci avremmo messo la firma tutti. Poi ovviamente per come il campionato si è svolto e per i valori che si sono visti in campo, gli sportivi, la città a un certo punto avrebbe anche sperato in qualcosa di più, anche perché comunque c'è stato questo paragone, questo dualismo con la San Giovannese che ha raggiunto i playoff a differenza nostra. Per cui la società comunque, malgrado siano opportuni gli applausi dovuti a tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, è chiaro, è stata anche un po' criticata, senza entrare ovviamente nei particolari, però ritieni questo giusto, non giusto, che ci sta, oppure si tratta di critiche sterili che comunque sono figlie di una passione e in un modo o nell'altro, qualsiasi sia il tuo punto di vista, dovrai riconoscere agli sportivi montevarchini? Allora, innanzitutto io premetto che le critiche, quando sono fatte in maniera costruttiva, siano sempre positive e siano sempre di stimolo, per cui noi le accettiamo, le ascoltiamo e cerchiamo anche poi di poterne trarre dei consigli da questo. Direi che la nostra stagione è stata una stagione importante, è stata una stagione ricca di buone cose. È evidente che lo sportivo, proprio per il sale dello sport, fa anche un po' di paragoni e noi abbiamo questo dualismo con la San Giovannese che effettivamente poi fra l'altro ci fa anche comodo, perché ci permette così di avere questo po' di sale che ci fa bene sportivamente. Bisogna riconoscere che la San Giovannese ha fatto bene, bisogna fargli complimenti, ha fatto meglio del Montevarchi, pur facendo bene tutte e due. Chiaramente la San Giovannese ha fatto qualche cosa di importante, anche perché probabilmente loro erano partiti con tantissimi dubbi rispetto a noi. Devo dire che però tecnicamente parlando avevano un vantaggio che nessuno ha menzionato, e era il vantaggio dell'esperienza della categoria, che sicuramente noi bene o male in qualche modo forse abbiamo anche pagato, ma è una cosa che sta nella normalità, che sta nello sport, che sta nelle esperienze lavorative, per cui direi che però noi siamo contenti e speriamo il prossimo anno di far tesoro di tutte queste esperienze che abbiamo vissuto quest'anno, e se non è che abbiamo commesso degli errori, ma comunque se è possibile sicuramente cercheremo di migliorare per vedere di poter fare qualche cosina ancora in più, e magari anche noi il prossimo anno aspirare a fare un campionato con i playoff. Però devo dire che onestamente, al di là dei playoff, il nostro obiettivo primario era quello di valorizzare il nostro settore giovanile. Colgo l'occasione per dare una spiegazione tecnica anche a quello che abbiamo fatto, no? O alla differenza dei valori o di quello che è stato espresso da noi rispetto anche alla San Giovannese. La San Giovannese ha fatto una cosa importante, ma onestamente il peso del nostro risultato è enormemente più grande rispetto a quello della San Giovannese, perché innanzitutto abbiamo una società importante fatta da dirigente Montevarchini e già ben assodata, che si è fatta le ossa partendo dalla seconda categoria e ha confermato e si è solidificata. Abbiamo un settore giovanile importantissimo che in questo momento a livello toscano direi che credo che sia il settore giovanile più importante della Toscana, e abbiamo fatto una squadra dove chiaramente il 70% dei giocatori sono nostri e il prossimo anno rimarranno con noi. Per cui se il risultato lo vediamo così, diciamo esclusivamente nei numeri, diciamo che magari noi qualche cosina in meno si è fatto. Se lo guardiamo in prospettiva, sicuramente abbiamo delle basi molto più solide, di cui noi chiaramente siamo molto contenti. Il suo ruolo nella società del Montevarchi in questo caso è il direttore sportivo e praticamente general manager, chiamiamolo come vogliamo. Vabbè, dopo ti do una spiegazione. Ecco, perfetto. Diciamo che è un ruolo, una figura che nei nostri studi è stata rappresentata una sola volta prima di lei dal suo predecessore, tra l'altro da Tiziano Casucci, che ci ha raccontato alcune sfaccettature di questo mondo, perché noi chiediamo al calciatore magari la scaramanzia oppure come si fa a colpire di testa piuttosto che di tacco. Però il direttore sportivo fa un lavoro che probabilmente è un po' sotto traccia rispetto a quello che è la realtà. Intanto io suppongo che un direttore sportivo non si fermi veramente mai durante l'anno, perché probabilmente l'occasione giusta per magari contattare un calciatore per il prossimo anno piuttosto che per gennaio può arrivare in qualsiasi momento, e quindi ci sarà da tessere magari una rete, una ragnatela di contatti, di conoscenze, di persone che si fidano, per cui magari un calciatore giovane della propria società lo mandano a Montevarchi piuttosto che da un'altra parte, e così potrebbe fare il Montevarchi rispetto ad altre società. Ecco, raccontaci un po' appunto la tua giornata tipo del direttore sportivo. Allora, innanzitutto io vorrei fare una precisazione. Nel mondo del calcio vengono adoperati degli aggettivi o delle figure chiamandole in una certa maniera. Allora, io non sono un direttore sportivo, il direttore sportivo è una figura riconosciuta federalmente che chiaramente appartiene a un albo. Io sono un allenatore. Sono un allenatore, ho cominciato ad allenare a 20 anni, oggi ne ho 66, ho fatto per 40 anni l'allenatore, da 5-6 anni ho cercato di ridare indietro di qualcosa che io ho accumulato nel tempo, e io più che il direttore sportivo faccio il responsabile tecnico di tutta la società del Montevarchi, per cui dai bambini piccoli alla prima squadra. E credo che questo sia un altro particolare importante che ci differenzia un po' da tante altre realtà. Montevarchi è una realtà dove dai bambini della scuola calcio alla prima squadra è una piramide senza interruzione, per cui ci sono dei passaggi, ci sono tutte delle figure che si concatenano e che, diciamo, mirano verso la prima squadra. Da il sottoscritto, che ne rappresenta un po' l'apice, il coordinatore, a tutte le altre figure. Per cui tutti quanti noi lavoriamo in funzione della prima squadra e siamo coordinati dal sottoscritto tecnicamente parlando. È evidente che in prima squadra abbiamo una categoria importante che è la Serie D, che evidentemente ha necessità anche poi di operazioni di mercato, di operazioni di andare a scovare dei ragazzi più che altri, più dei giocatori e quant'altro. Ma il nostro obiettivo, che è un po' il nostro, diciamo, senso, è quello di creare una società basata sui giovani e dare la possibilità a tutti i nostri ragazzi di fare un percorso. Il percorso poi li può portare in prima squadra o li può portare in categorie diverse, ma è una costruzione sia tecnica che caratteriale che porta un bambino a essere uomo e a essere calciatore, con tutto quello che ne consegue tecnicamente, tatticamente e anche da un punto di vista morale, psicologico e caratteriale. Poi se i nostri ragazzi arrivano alla nostra categoria, bene, se però vanno in promozione, in eccellenza o in terza categoria, comunque hanno avuto una scuola e un percorso. E per certi aspetti è questo quello che io vado a ribadire e vado a rivendicare, perché il mio compito, il compito dei miei collaboratori è la costruzione del giocatore inteso però a 360 gradi in tutte le sfaccettature. Ecco, io è evidente che sono così, diciamo, raffigurato come direttore sportivo. In realtà io, quando mi è possibile, spiego che io direttore sportivo non lo sono, sono un tecnico, coordino la parte tecnica da parte di tutti, compreso la parte tecnica anche della prima squadra. E il volo dell'Aquila anche in questo caso svela i misteri, insomma questo alla fine era una specie di mistero. Io per tutto l'anno ho pensato che Giorgio ricoprisse il ruolo di direttore sportivo, e invece grazie per averci spiegato a me e a tutti gli ascoltatori di Radio Big World che differenza c'è fra il direttore sportivo e la figura che ricopri in questo momento nella società. Tra l'altro, ammettendo quello che dicevi te, che il compito del direttore sportivo è un compito complicato, quello di Giorgio è ancora più complicato, perché comunque si tratta di monitorare, di seguire una realtà a 360 gradi, una realtà che, come ci aveva già anticipato e detto il presidente Angelo Livi, guardava molto all'idea, passatemi il termine, di cantera alla Barcellona, o comunque quella di creare e ripartire dai settori giovanili per poter guardare poi alla prima squadra. Quindi indubbiamente ci vorrà una grande esperienza che ci ha introdotto Giorgio, dicendoci appunto che vieni da molti anni da allenatore. Siccome probabilmente, presumibilmente, ci auguriamo questa trasmissione possa essere ascoltata anche da persone che non sono di Montevarchi, se ci puoi riassumere un po' tutti questi anni in panchina, che esperienza ha avuto, che squadre ha allenato e quello che è il bagaglio che ti ha lasciato. La mia esperienza è lunga e parte da lontanissimo. Io in realtà ho cominciato a fare l'allenatore per un discorso umanitario, perché io appartenevo a un gruppo giovanile del Pestello, laddove esisteva una parrocchia con una squadra della parrocchia che, partendo dal nulla, arrivò a ricoprire delle categorie e a fare addirittura, diciamo, l'alta società, che competeva addirittura anche con i bambini a quel tempo del Montevarchi, che si parla degli anni 70. Io da lì, dove giocavo, ho cominciato a allenare i ragazzi. Ho avuto il mio maestro putativo, che effettivamente io lo ricordo con grande piacere, che è Castellucci Silvano, che mi ha iniziato a questa attività. Dopodiché, chiaramente, vedendo che ero predisposto a fare questo, ho fatto tanti anni il settore giovanile in società locali, ma iniziai a dire la verità con i giovanissimi del Montevarchi. Ho allenato i ragazzini del 1962, che sono, ne ricordo tantissimi. Alcuni di questi ragazzi oggi ce l'ho con me come istruttori, insieme a me hanno sposato questo progetto. Da lì, chiaramente, avendo predisposizione a fare allenatore, ho fatto tutte le categorie, sono passato dalla terza categoria alla seconda categoria, promozione, eccellenza, tanti anni di interregionale, ho viaggiato in Toscana, in Umbria e quant'altro. Dopodiché, a un certo punto, per scelte familiari, ho deciso, diciamo, di interrompere l'attività di allenatore 6 anni fa, 7 anni fa, ho intrapreso questa attività che vi ho spiegato. Ho cominciato da Rignano, dove sono stato 2 anni, ho gettato le basi perché poi dopo in effetti sono state, diciamo, proseguite, sono arrivati fino alla Serie D. Poi sono andato a Lucca, dove ho sposato il progetto della Lucchese attraverso il presidente della Rignanese, che era andato a fare il presidente alla Lucchese. Abbiamo vinto il campionato di Interregionale Serie D, siamo andati in Lega Pro. Poi ho invece deciso di sposare un progetto più importante, che era il progetto della mia città, e da qui ho iniziato a condividere con gli attuali dirigenti questo progetto. Il primo anno l'ho dedicato al settore giovanile, ho cercato di aiutarli a crescere, a strutturarli, a mentalizzarli e quant'altro. Il secondo anno e il terzo anno, diciamo, ecco, ho anche iniziato a occuparmi della prima squadra, per cui c'è tutto una scala e un progetto seguito. Adesso qual è il nostro obiettivo futuro? Il nostro obiettivo futuro è vedere tutti gli anni coronare il nostro percorso da parte di qualche ragazzo e poterlo portare, diciamo, in prima squadra e far giocare. È già iniziato questo percorso, già alcuni ragazzi hanno iniziato a giocarci, altri ragazzi che magari per scelta, perché poi dopo non tutti i giocatori che potenzialmente giocano in Serie D ci giocano, alcuni per scelte di lavoro, per scelte di studio, magari fanno delle scelte diverse e devono magari allenarsi o giocare in promozione, in prima categoria, perché non hanno il tempo per allenarsi, perché durante il giorno lavorano. È chiaro che in Serie D si comincia a sfiorare un po' il professionismo, perché ci alleniamo tutti i pomeriggi, il sabato mattina, il mercoledì facciamo il doppio, la domenica ce ne andiamo dalla mattina fino alla sera, per cui è evidente che lì viene fuori una selezione. Ma ripeto, la nostra volontà è quello di creare calciatori che poi vanno a occupare le categorie che poi scelgono o che gli appartengono. Più volte ai nostri microfoni, da magari ex calciatori, ci è stato detto che hanno vissuto delle esperienze in compagnia di altri calciatori che molto probabilmente niente avevano da invidiare a calciatori che erano ad esempio in Serie A. E questo probabilmente nel tuo lungo viaggio attraverso le panchine e poi ora questa esperienza che stai facendo da direttore tecnico, avrai visto molte probabilmente situazioni di questo tipo. Ci dicevano che la grande differenza fra un calciatore di Serie A e un calciatore ad esempio di Serie D a livello tecnico, poi in soldoni, non è un granché. E tante volte ci hanno detto: sì, quando giocavo in C ci allenavamo così, poi siamo andati in A, mi sono trovato in A, ma ci allenavamo più o meno uguale, anzi forse un poco meno, ma l'aspetto mentale era l'aspetto principale. E secondo queste persone, appunto, tanti calciatori dalle doti, qualità tecniche importanti non arrivano alla summa del calcio proprio per una mancanza di mentalità o di mente programmata per resistere probabilmente a quei riflettori, a quei contraccolpi, a quelle pressioni. È così oppure no? È così. Un calciatore è fatto di tanti aspetti, no? Sicuramente l'aspetto più importante è l'uomo, che è il carattere, è la predisposizione a fare sport, che sicuramente è la dote più importante. Poi ci sono delle doti tecniche e, da non trascurare, ci sono delle doti fisiche. E ognuno di noi ha un motore addosso, c'è chi ha un motore per la 500 e c'ha che c'ha un motore della Ferrari. Può capitare che qualche ragazzo abbia dei motori dentro, sia tecnici che fisici, però che gli rimangano nascosto da tante cose. Innanzitutto l'opportunità di poter fare determinati campionati, l'opportunità di poter trovare nella propria strada degli allenatori che riescono a valorizzarla, l'opportunità di trovare una società che magari vince dei campionati e lo fa salire, gli dà l'opportunità di frequentare e di imparare. Allora, i calciatori, come gli allenatori, come tutti noi che facciamo dei lavori, a volte siamo legati anche a delle opportunità che ci capitano, anche a volte involontariamente. Ogni persona cresce se ha la possibilità di fare delle esperienze, di misurarsi con delle difficoltà superiori o con delle esperienze superiori, o di mettersi, di avere la fortuna di andare vicino a delle persone da cui riceve degli insegnamenti, e questo, per cui è complesso, ma sicuramente in Serie D o anche nelle categorie inferiori ci sono dei giocatori che per motivi di carattere, che per motivi di opportunità, di fortuna o di altro, magari rimangono nascosti, e sono quelli che poi magari in ogni categoria fanno la differenza, perché poi ci sono dei giocatori in promozioni che fanno la differenza e potrebbero aver fatto la Serie D, ci sono dei giocatori che fanno... È evidente che quando poi uno... c'è anche questa cosa strana: se un giocatore è bravo e gioca magari in eccellenza, una squadra che ce l'ha poi se lo tiene stretto, o non tutti gli danno la possibilità, perché è un valore che gli fa vincere, per cui certe volte uno, e allora lì viene fuori un po' l'ambizione, il carattere del giocatore, che magari si accontenta, si adagia e non ha, diciamo, questa opportunità. E questo aspetto mentale io suppongo che sia anche rivolto ai calciatori, ad esempio, del Montevarchi, quindi di questa categoria. Tanti sono arrivati probabilmente per la prima volta a questa categoria, venendo magari dall'eccellenza, dalla promozione, qualcuno ha fatto due promozioni con il Montevarchi. C'è un cambiamento di approccio per i calciatori, ad esempio avere dei pubblici, avere degli impianti più grandi, del giocare contro società più blasonate, ad esempio quest'anno il Montevarchi si è affrontato contro il Rimini, che per molti alla fine andare a giocare a Rimini era... una prima volta, insomma, dopo qualcuno che magari era stato a Torrita, con tutto il rispetto per il Torrita, insomma, ecco. Sì, sì, è quello che ti dicevo, è l'opportunità di frequentare ambienti, squadre, esperienze da cui sicuramente uno cresce. Io, guarda, l'esempio dell'allenatore è emblematico. L'allenatore cresce, ho giocato al calcio in terza categoria, sono arrivato in Serie D e onestamente ci sono arrivati con i miei mezzi, ma rubando tecnicamente le esperienze alle categorie e ai giocatori che magari allenavo, perché sicuramente magari avevano qualche esperienza in più di me. Io, facendo l'allenatore e con un certo metodo e con una certa capacità, riuscivo a prendere e sono cresciuto. E la stessa cosa vale per i ragazzi. Sicuramente noi abbiamo dei ragazzi che quest'anno, giocando per la prima volta in questo campionato e misurandosi con delle realtà più importanti, innanzitutto è una vetrina perché si sono messi in mostra, poi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con gente anche più brava. Ecco perché dicevo prima l'esperienza, no? L'esperienza magari della San Giovannese, che già faceva questa categoria e già aveva già dato questa opportunità a alcuni. Noi lo abbiamo iniziato quest'anno e sicuramente il prossimo anno avremo un piccolo vantaggio, perché comunque abbiamo già dato qualcosa ai nostri ragazzi, insomma. Mentre invece io sono curioso a livello di settore giovanile più indietro, diciamo, perché come te giustamente ci hai detto prima, il tuo ruolo è quello di coordinare fin dai pulcini, diciamo. E com'è che si inizia ad agire per favorire questa crescita, questo sviluppo mentale da un bambino, pensando che possa poi, nella migliore delle ipotesi, arrivare a esordire in prima squadra? Allora, guarda, mi fai una domanda importantissima a cui tengo tantissimo a rispondere e a dare una spiegazione, perché probabilmente rimane difficilissimo capire il lavoro che noi intendiamo fare, o il lavoro del settore giovanile fatto in una certa maniera e fatto in un'altra maniera. Allora, il lavoro più importante da fare è nell'educare i bambini e nel insegnare ai bambini a pensare che cosa stanno facendo, a pensare dove sono, e a iniziare a dargli delle regole, a dargli dei riferimenti. È da lì che si forma la testa e la mentalità di un giocatore, perché fin da bambini, se innanzitutto i primi calci, noi li accompagniamo fino a un certo punto, noi permettiamo a qualche genitore di venire nello spogliatoio, non a tutti, ma magari selezioniamo due o tre genitori che aiutano anche gli altri bambini, ma gli insegniamo a cambiarsi da soli, gli insegniamo pianino pianino a fare la doccia da soli, gli insegniamo a asciugarsi la testa da soli, gli insegniamo a vestirsi da soli. Questo è il primo step. Pianino pianino poi gli insegniamo il comportamento all'interno dello spogliatoio, il comportamento quando passano il cancello del campo. Io ai genitori che vengono a parlare con me gli dico: guardate, voi mandate inconsapevolmente quasi allo stesso livello dei bambini a scuola. A scuola imparano una cultura, imparano nel calcio, imparano delle regole sportive e imparano a crescere da un punto di vista sportivo, che direi che forse è la base poi dell'uomo, no? Perché comunque se uno condivide, se uno rispetta determinate regole sportive, sicuramente, indipendentemente da quello che farà, ma sicuramente a livello di uomo maturerà quelle caratteristiche fondamentali per la socializzazione, insomma. Torniamo un po' al ruolo del direttore tecnico, appunto, Giorgio. Bene, pensando che i numeri a livello di tesserati FIGC sono enormi e solo pochissimi, come dicevamo prima, arrivano alla somma del calcio, ce ne sono tantissimi che nuotano in un mare sconfinato che va dalla Serie D appunto alla terza categoria. Ma come fa un direttore tecnico a mettere gli occhi proprio su quel giocatore lì e, quando ce l'ha messi, proprio a portarlo alla sua corte, diciamo, nella sua squadra? Nel fare questo mestiere è evidente che bisogna avere una passione sconfinata, bisogna avere una famiglia che glielo permette, bisogna avere un lavoro che te lo permette. In questo momento qua io ho la massima, diciamo, disponibilità, anche perché attualmente sono in pensione, ma anche nel passato, quando io ho fatto questo tipo di lavoro, ho fatto delle scelte, che chiaramente ho sacrificato il lavoro, ho fatto il part-time negli ultimi 25 anni della mia attività lavorativa, avevo un lavoro che mi permetteva, anche così nei ritagli di tempo lavorativi, non si dovrebbe dire, ma di poter dedicare del tempo a questo. È evidente che io, tanto per darvi dei numeri, io settimanalmente vedo 5-6 partite, di cui 3 o 4 delle mie squadre, perché io vado a vedere i bambini del 2008, del 2009, magari che giocano il mercoledì o il giovedì, perché giocano in settimana. Il sabato vado a vedere o la Juniores o la Lievi B che giocano il sabato, la domenica mattina vado a vedere gli allievi e la domenica pomeriggio vado dietro alla squadra. Quando non vado a vedere le mie squadre o quando le ho già viste, e è quello che sto facendo dalla metà della stagione in poi, io vado il sabato a vedere le prime avere le Berretti in giro, la domenica mattina vado a vedere gli allievi nazionali di altre società, per cui io conosco, e chi fa il mio lavoro conosce, diciamo, tutti i ragazzi, prima di tutto della propria società, sicuramente i ragazzi che sono vicino a noi, che con più facilità vediamo perché incontriamo più facilmente nei campionati locali. E è evidente che però bisogna conoscere anche i giocatori delle squadre professionistiche. Dimenticavo che poi vedo 3 o 4 partite della Serie A o della Champions League, ma lì mi ci addormento, mentre se vado a vedere le Berretti, le Primavera o le mie squadre non mi addormento, perché c'è un interesse diretto. Io vivo il calcio a 360 gradi, però 270 mi interessa e l'altro lo faccio per passione, per cui il calcio della Serie A mi piace perché comunque fa parte, comunque, sotto certi aspetti del mio mondo, e comunque si colgono degli aspetti che poi si cerca di riportare anche qui, ma su 360 gradi, i 270 gradi li dedico al mondo che mi appartiene, perché se io vado a vedere le Berretti, le Primavere, c'è un interesse perché sicuramente qualcuno di quei ragazzi, poi qualche procuratore o qualche giocatore o qualche società me li propone. È evidente che io prendo soltanto giocatori che vedo, non frequento procuratori, non chiamo mai un procuratore per farmi dare un giocatore, ma lo chiamo se so che un giocatore è gestito. Fra l'altro, discorso dei procuratori, nei dilettanti, è anche una figura non riconosciuta. Noi siamo obbligati a parlarci perché sotto certi aspetti la Serie D è un campionato intermedio e alcuni giocatori che eventualmente noi facciamo giocare qui provengono dal mondo professionistico e sono gestiti dai procuratori, e questa è la ragione per la quale noi parliamo con i procuratori, altrimenti non dovrebbero esserci queste figure nel nostro mondo dei dilettanti. Per cui ho dato una spiegazione: chi fa questo tipo di lavoro qui vive 24 ore al giorno per 360 giorni di calcio. E restando dentro il mondo del calcio, magari guardandolo anche da un punto di vista più generale, chiaramente luce e ombre, il calcio dovrebbe essere quella palestra formativa di cui ci hai parlato te, Giorgio, quell'impostazione che l'Aquila vorrebbe dare ai suoi ragazzi, però contemporaneamente convive anche con scandali, sia a alto livello e a livello di Serie A ne abbiamo sentite di tutte, sia a livelli più bassi come recenti problematiche, discussioni e scandaletti che sono avvenuti anche attorno alle categorie dove anche l'Aquila ha navigato. La domanda che voglio farti è: il calcio si presta ad essere terra anche di, tra virgolette, ladroni che cercano attraverso dei sotterfugi di fare i propri interessi? Il calcio è uno sport, si gioca, si perde, si vince, si pareggia, per cui è evidente che la cosa che è più importante da fare è insegnare ai propri giocatori, a enfatizzare o comunque far sì che tutti quanti nella società si pensi al fatto che giocando debba vincere il migliore, e ogni volta che si scende in campo bisogna scenderci con quello spirito agonistico, con quella mentalità di esprimersi al massimo indipendentemente da chi c'hai di fronte, indipendentemente da che partita vai a affrontare. Io dico sempre che i campionati si perdono e si vincono. Non è troppo facile giocare il derby con la San Giovannese, è molto più difficile giocare un match, una partita con l'ultima in classifica che magari è già condannata e magari lo sottovaluti. Io penso che la cosa importante è cercare di diffondere e di costruire una mentalità a tutti i nostri istruttori, a tutti i nostri dirigenti, a tutti i nostri giocatori, che sia quella di poter dare sempre il massimo indipendentemente dall'avversario, indipendentemente dalla classifica, indipendentemente dal periodo. Questo evidentemente ti può penalizzare per una gara, ma alla fine dell'anno, nell'arco di un periodo, ti dà questo aspetto qua. Purtroppo a noi italiani ci appartiene non al massimo. Già in Inghilterra c'è una cultura sportiva molto più, diciamo, acquisita, per cui vedi che magari nella massima serie ci sono magari delle partite in cui una partita già scontata può non lo essere, ma lo abbiamo visto anche ora per fortuna nella Champions League, dove determinate squadre hanno ribaltato dei risultati in maniera eclatante. Segno è che magari a livello europeo si sta giustamente diffondendo questo spirito sportivo. Si prestano questi campionati perché a fine campionato, quando una squadra ha finito gli obiettivi, se ha giocato esclusivamente per un obiettivo, quello di vincere o di raggiungere un certo traguardo, e non lo ha raggiunto o lo ha già raggiunto, così di avere meno entusiasmo. Ecco che se però te hai costruito nel tuo ambiente una mentalità sportiva che è indipendente dal momento in cui avviene una gara, dal tipo di avversario, si presta meno. Devo onestamente riconoscere che purtroppo nello sport, come un po' in altri aspetti della vita italiana, noi italiani certe volte ci possiamo prestare purtroppo a questi periodi. Stiamo andando lentamente verso il termine di questa puntata, ma prima vorrei farti una domanda che in qualità di direttore tecnico probabilmente ti riguarda molto più di quello che possa sembrare. Il Montevarchi, ad esempio, quest'anno andava ad allenarsi a Loro, e poi magari le squadre giovanili si allenano in certi tipi di campi piuttosto che in altri. Ecco, non voglio andare a mettere il coltello nella piaga o a criticare questo, perché alla fine i risultati sono arrivati e quindi tanto di cappello a tutti. Però se ci fossero strutture più vicine che possano magari permettere alle squadre di allenarsi anche insieme, che ne so, così che la juniores potrebbe magari inserire con più facilità qualche allievo e, o la prima squadra, qualche, insomma, creare una cosa più fruibile appunto per tutti i vari settori dell'età che la società si appresta ad affrontare con i giovani, sarebbe un passo in avanti. E per la prima squadra in particolare, avere una struttura più ricettiva, più nuova, con magari il pubblico più vicino, perché in molti calciatori ci dicono che il calore del pubblico che ritrovano a Montevarchi li ha effettivamente colpiti, perché da altre parti non c'è. Ecco, ci fossero un po' queste cose, mica tutte, ma qualcuna, sarebbe meglio oppure no? Allora, te tocchi una problematica a livello italiano. Noi siamo usciti dai mondiali e ci si chiede tutti il perché. Siamo usciti dai mondiali perché siamo indietro 20 anni rispetto ad altre nazioni, perché comunque le strutture non sono adeguate, e sicuramente parte da lì la nostra problematica. La nostra problematica sono le strutture. A Montevarchi questo problema è ampliato dal nostro passato. Chi ci ha preceduto, e io ho 60 anni, in 60 anni il settore giovanile a Montevarchi non è mai stato curato in una certa maniera. Oggi questo da 5-6 anni viene fatto, purtroppo però noi subiamo le conseguenze di questa non cultura degli ultimi 50 anni. Chi ci ha preceduto ha fatto bene la prima squadra, ha pensato sempre a fare, di vivere annualmente, si è toccato dei traguardi importanti, purtroppo si è lasciato un terreno arido, cioè siamo anche dovuti ripartire dalle macerie, ripartendo da questo, però l'aspetto che tutti non considerano non era tanto ripartire dalla seconda categoria, siamo ripartiti senza un dirigente, perché nell'arco degli anni non è mai stato fatto crescere un dirigente. Siamo partiti senza una struttura, perché negli ultimi 60 anni non è stato fatto un investimento. Sono anni e anni e anni che a Montevarchi non viene investito una lira sugli impianti, per cui gli impianti che ci sono impianti di 60 anni fa, di 50 anni fa. È evidente che ora però non si può rinfacciare all'attuale amministrazione o all'amministrazione precedente, è un qualcosa che noi ci portiamo dietro da decenni. È evidente, per poterlo colmare adesso ci va un impegno importante. Questa società si è resa disponibile anche a poter contribuire, sicuramente l'attuale amministrazione è molto vicina, è molto sensibile, si è dichiarata sensibile a questo. Noi contiamo di vederne anche qualcosa di pratico e di realizzarlo, perché sicuramente tutto quello che abbiamo costruito, se nell'arco di poco tempo non viene comunque fatto frutto anche degli impianti, è destinato a non poter avere un proseguo. Gli impianti è il segreto, gli impianti e gli istruttori è il segreto di una società e di un progetto come il nostro. Sugli istruttori, sui ragazzi ci stiamo lavorando, sugli impianti ci stiamo lavorando, però non siamo i soli a cui che ci debbono lavorare. Bene, allora, con l'augurio che magari nel prossimo futuro inizieremo a vedere qualche struttura nuova che spunta da qualche parte intorno a un campo sportivo, insomma, l'augurio è questo, visto che farebbe davvero comodo. È arrivato il momento di salutarci, di ringraziare calorosamente Giorgio Rosadini per essere stato ospite ai microfoni di Radio Big World. Io ringrazio voi, vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato di poter così magari illustrare quello che c'è dietro a una società o quello che c'è dietro a questo progetto del Montevarchi. Per me è stata un'occasione importante, siete stati molto gentili e disponibili, per cui saluto voi e saluto tutti gli ascoltatori che avranno la pazienza di ascoltarci. Saluto anche il mio compagno di viaggio alla ricerca della montevarchinità, Giulian Carax. Grazie a te Fumino, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie al nostro regista Bernardo Bertolucci, grazie a Stefano Neri ancora una volta, sempre da ringraziare sia in apertura che in conclusione. Grazie Giorgio e buonanotte a tutti. Moggi esiste in Serie A, Moggi esiste anche nei dilettanti. Chiaramente io cerco di portare una cultura sportiva dai bambini, ma la porto anche in prima squadra, all'allenatore. Poi avete un allenatore che è un mio, diciamo, figlioccio. Come fanno d'altra parte normalmente in Inghilterra, cosa che purtroppo in Italia non facciamo. Il Montevarchi è costruito con questo stile qui. Devo dire che è successo un casino della Madonna la settimana successiva, perché diciamo quella sconfitta non mi è piaciuta e è venuto fuori. È la cultura italiana. Generalizzo. Perché nella vita poi di santi non ce n'è più. No, certo, certo. E anche santi, voglio dire, qualche cazzata magari l'hanno fatta, sì, sicché sì, voglio dire. Io dico che però ho una mentalità, diciamo, sportiva, e cerco di trasmetterlo innanzitutto a chi poi mi sta vicino, deve lavorare con i ragazzi, perché sicuramente noi ci possono rimproverare qualsiasi cosa, ma non di essere sportivi e di giocare tutte le partite per vincere o per onorare lo sport. Salutiamo anche il nostro regista pluripremiato, e però non mi ricordo chi è. Che sta ancora ballando in tanto. Esatto. Io ringrazio te, Fumino, ringrazio i nostri ascoltatori, colgo l'occasione per salutare il nostro regista Bernardo Grazie Inneri il regista.